Buongiorno, benvenuti a Radio Left. Sono in compagnia dei coautori della storia di copertina di questa settimana. Questa settimana ci siamo occupati di Basaglia e abbiamo titolato La sinistra che sbasaglia, volendo fare un po' così dell'ironia. Sono qui con Federico Tulli. Buongiorno e a tutti. Simona Maggiorelli e il professor Massimo Fagioli. Buongiorno professore, la ringraziamo, una splendida intervista questa settimana, molto chiara. È molto difficile criticare Basaglia, criticare nel senso di fare delle critiche che non sono tese né a demolire un passato che sicuramente è stato importante, una battaglia politica indispensabile, né tantomeno un uomo, insomma, che la sua battaglia l'ha fatta e che i manicomi li ha chiusi per davvero. Ogni volta però che tentiamo di andare oltre, cioè che tentiamo di capire per fare ricerca, l'irrigidimento è totale. Allora noi abbiamo voluto un po' tentare di scardinare, specialmente in questi giorni, una sorta di beatificazione, santificazione che viene proposta da giornali, media, convegni di questa figura, ma non per distruggere, insomma, voglio precisarlo. Abbiamo, diciamo, un bellissimo articolo di Federico Tulli che si intitola Quel che resta di Basaglia. Ecco, ci vuoi spiegare quali poi in realtà sono stati i problemi sul territorio dell'applicazione di questa legge 180? Sì, dunque, io ho intervistato il farmacologo Silvio Garattini e lo psichiatra Andrea Piazzi della ASL Roma G. E, diciamo, entrambi si sono detti assolutamente d'accordo sul fatto che la riforma che riguardava i manicomi in Italia andava assolutamente fatta. E il problema sostanzialmente era perché comunque quelli, chiamiamoli ospedali, erano riempiti oramai in una maniera totalmente ingestibile. E per di più dentro non c'erano solo persone che avevano problemi di salute mentale, ma anche altri tipi di pazienti, che potevano essere quelli che avevano disturbi neurologici, ma c'erano, per dire, anche alcolisti e così via. Quindi comunque quelle strutture erano diventate tutt'altro che degli ospedali. Ecco, quindi in questo senso sia il professor Garattini che il professor Piazzi si sono detti d'accordo. I manicomi andavano chiusi. Ciò che secondo Piazzi non probabilmente ha creato qualche problema è stato poi l'impianto della legge, perché nel momento in cui si riconosce l'impossibilità di curare delle persone in quelle situazioni lì, poi lo Stato dovrebbe mettere a disposizione del medico delle strutture adeguate per poter andare a intervenire sui pazienti che soffrono di patologie mentali. Ecco, questo secondo Piazzi in pratica non è mai avvenuto. E non è avvenuto per quale motivo? Insomma, ecco, perché si è passati, cioè, ecco, lui ha puntato specialmente sul fatto che dallo psichiatra che aveva la titolarità della cura, ecco, questa titolarità è stata persa da parte dello psichiatra ed è stata affidata a delle equipe che intervenivano sul paziente, però senza avere una specifica professionalità e le conoscenze terapeutiche necessarie per poter affrontare le diverse patologie di cui i malati di questo genere soffrono. Quindi per lungo tempo il sistema di cura è stato, dice appunto il dottor Piazzi, come sistemo questa persona, come gli occupo il tempo, che relazioni gli faccio avere, come lo faccio divertire, cioè nessuno si è mai occupato di come lo faccio guarire. In pratica dai manicomi si è passati a un concetto di rapporto con queste persone puramente assistenziale. Questo, se posso dire, anche, ecco, il professor Gattini si è detto d'accordo, dice tanto più che nel momento in cui sono stati chiusi quei manicomi c'era la possibilità, dal suo punto di vista, di intervenire per, se non altro, agire sui sintomi, perché l'industria farmacologica proprio in quegli anni, fino agli anni 60, inizio anni 70, cominciava a produrre dei farmaci che potevano aiutare il medico per nel rapporto con appunto con la persona che soffriva di una patologia mentale. Professore, posso chiederle, professor Fagioli, posso chiederle, lei nel 64, quindi prima di Basaglia, era già lì ad abbattere muri, a togliere camicie di forza, a vivere con i pazienti? Poi il 57, 58, un po' prima. Ecco, appunto, perché oggi... A Venezia, sì. Perché oggi, 30 anni dopo, lei dice era una rivoluzione necessaria ma non sufficiente? Ecco, cioè non basta abbattere le mura, è importante ma non è sufficiente. Certamente, quello è un fatto politico, un fatto che non riguarda particolarmente la psichiatria, men che meno la salute mentale o la ricerca sul pensiero umano e la malattia. Quello deve essere fatto anche per tutti gli atti ospedali, deve essere fatto di dare a chi i ricoverati, che siano ricoverati senili nei centri di assistenza, che siano cardiopatici, eccetera, un'assistenza ma adeguata, umana, che non siano appunto abbandonati nei corridoi, nel lettino, eccetera, come accade anche negli ospedali generali di medicina generale. Quello per cui mi sono sempre rivelato, pur facendo queste cose, anche 3-4 anni prima, 2-3 anni prima di Basaglia, prima cioè del 61, era soltanto una premessa, era soltanto un momento, ecco, cosa necessaria, ma non affatto insufficiente. Questa faccenda di rinunciare a priori a qualsiasi ricerca sulla malattia mentale, sull'esistenza, sullo stabilire quello che è la malattia mentale, riuscire a riprendere questi, che certamente erano cadaveri di quello che aveva fatto Pinel, Esquirol, Kraepelin, Bloiler, che avevano fatto delle grossolane tentativi di definire cos'era una depressione, cos'era una schizofrenia, cos'era una nevrosi ossessiva, un'isteria, eccetera, furono aboliti tutti completamente, no, invece andavano approfonditi e sviluppati. Quindi però è un fatto che cioè io pensato sempre quando facevo queste cose, appunto non mi limitavo a fare queste cose, perché non avevo l'idea che la malattia era incurabile, perché non avevo l'idea che la natura umana sia naturalmente perversa, naturalmente pazzia, naturalmente peccato originale e così via dicendo, cioè occorrevano queste idee per andare a vedere appunto. Beh, l'ho detto anche nell'intervista, questo movimento di idee che c'è da un paio di secoli in particolare, se vogliamo, ma che risalgono anche a un paio di 1.000 a 3.000 anni fa, ai tempi del Logos occidentale, ai tempi della Bibbia, che col peccato originale e così via dicendo. Quello che io ho sempre rifiutato, perché io non mi sono mai lasciato prendere dall'entusiasmo di Basaglia, anche se ci stavo vicino, e stavo lì, io stavo a Padova e lui stava a Gorizia, poi io sono andato in Svizzera, lui restò a Gorizia a fare la comunità terapeutica che ugualmente io avevo già fatto nel 62-63 a Kreuzlingen, David Wanger, proprio per vedere quello che diceva, ma contemporaneamente mi sono studiato tutta questa filosofia, tutta questa ideologia che stava sul discorso della realtà umana e in particolare questa cosa della ricerca sull'inconscio. La ricerca qui c'era, in effetti, dopo la rivoluzione francese, dopo l'illuminismo, se vogliamo, momenti dell'Ottocento, anche movimenti politici nel socialismo, un tentativo o un'idea di andare a vedere qualcosa oltre la struttura razionale, la struttura utilitaristica, per cercare una realtà umana più vera, che stava nell'inconscio. E lì c'è il filone che va dalla ipnosi da Mesmer, dall'ipnosi alla psicanalisi, la quale pure però è restata qualche cosa di... ma cinicamente mi viene da dire divertimento aristocratico per poche persone che si potevano permettere 25 anni di lettino come Woody Allen, Bertolucci, pagando un sacco di soldi per poi fare soltanto una ricerca sul ricordo cosciente, che era quello di Vico della Mirandola, di Giordano Bruno, quello del Cinquecento. Certo. Invece bisognava scoprire un pensiero inconscio, ma non soltanto un pensiero inconscio, e che non è stato mai considerato pensiero nei fenomeni inconsci, appunto, da Galimberti, da Freud a Galimberti, certo, e a Platone è stato sempre considerato pazzia, che è nell'inconscio. Ma prendere la parola malattia e porla non soltanto sulla coscienza del comportamento, cioè la clinica psichiatrica cosciente, ma riuscire ad avere il coraggio di dire che la parola malattia va anche in questo pensiero inconscio. Se c'è la pazzia, non è natura umana, certo, è una malattia. L'uomo nasce sano e non si capisce perché dovrebbe nascere malato. Il concetto di malattia è qualcosa che interviene sulla sanità, sulla norma, sulla sanità mentale, e interviene la malattia. Certo. Simone Maggiorelli, un grande articolo, Lo psichiatra bifronte, lei scrive di una vera e propria abdicazione alla formazione medica e sostiene che la malattia è stata trasformata da Basaglia, ma prima di lui da Heidegger, in condizione esistenziale. Ecco, ci vuole spiegare? Dunque, più che spiegare, in realtà io mi sono limitata a fare una ricostruzione storica, andare a vedere cosa interessava Basaglia, cosa scriveva e cosa hanno scritto su di lui, su questo rapporto con i filosofi, perché indubbiamente l'interesse per la filosofia per Basaglia fu preponderante, cioè arrivò a diventare più importante della sua stessa formazione medica, come diceva lei, appunto arrivò a abdicare alla propria formazione sposando la filosofia come lo strumento per affrontare il discorso della follia. Ora, il punto fondamentale è che, tra l'altro, tra le sue, diciamo, fonti, riferimenti, troviamo anche cose molto discordanti tra loro, nel senso che, come tutti sanno, insomma, si rivolse moltissimo a Sartre per l'idea di libertà, una libertà assoluta che veniva prima di tutto, e poi Foucault negli anni che intorno, insomma, al 68, per la critica anti-autoritaria, no? E antiscientifica, anche la messa in discussione di ogni paradigma scientifico che veniva da Foucault, e contemporaneamente attraverso appunto Binswanger era arrivato a leggere Heidegger, e da Heidegger prende proprio un'idea della malattia, della follia, come design mancato, dice, cioè si affida Basaglia totalmente al linguaggio della filosofia, rinunciando a voler capire invece qual è l'eziopatogenesi della malattia mentale. Non so, giusto per fare un esempio, una citazione che mi sembrava pregnante e che mi piacerebbe il professor Fagioli, appunto, che è competente, commentasse. Appunto, Basaglia scrive: la follia è una condizione umana, in noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio farla diventare una cosa razionale. Ecco, esattamente quello che prima lei diceva. Sì. Mi pare di aver già accennato, di aver già detto, bisogna affrontare, avere il coraggio di affrontare queste vecchie ideologie, eccetera, sulla natura umana e sulla nascita umana, diciamo pure, che se è un dibattito, è una storia anche di confronti, per non dire scontri notevoli, anche attuali. Cioè questa faccenda del peccato originale, che è confermato dal Papa l'8 dicembre, quando afferma che l'unica persona priva del peccato originale è la Madonna. Piccola logica, che gli altri 7 miliardi di persone nascono col peccato originale. Questa è la stessa idea della Costituzione con i presocratici e Platone e anche Aristotele, eccetera, della identità umana come ragione. Tutto ciò che non è ragione è irrazionale, e l'irrazionale è appunto essere umano mancato, Dasein mancato. Quindi è come l'enigma della Sfinge, che non è riuscito, quindi restano queste idee della della mitologia, diciamo, per cui esiste la sirena, l'arpia, il centauro, cioè mezzo uomo e mezzo animale. Soltanto la ragione che deve passare la sua esistenza a controllare questo irrazionale che è pazzo. E qui non so, c'è una cosa che io non capisco. Come si faccia a fondere quella che può essere la follia di un anticonformista, come nella rivista, nella rivista Left, un po' pazzerello, e in fondo tutti i geni, i grandi artisti, eccetera, un po' pazzerelli lo sono, ma è una battuta da mettere tra virgolette. Cioè, non sono tanto normali, tra virgolette. Sono anticonformisti, sono ribelli, eccetera, eccetera, ma sono geni e artisti. Non ha niente a che vedere col pazzo che taglia il collo al padre perché perde al PlayStation. Nemmeno quello del padre che si stufa della famiglia e ammazza tutti. Questa è pazzia feroce, eccetera, che non sta nella natura umana, è malattia. Però questa idea della malattia del pensiero, della malattia del corpo sì, si accetta, ma la malattia del pensiero non si accetta. E difatti la psichiatria è cominciata come malattia del cervello, da Pinel a Esquirol, a Kraepelin, che la chiamava eccetera, forse Breuer, col discorso della scissione, ma non si è mai distinto che si sia una malattia, no, perché tutto ciò che non è realtà biologica, materia, percepibile, studiabile, eccetera, è spirito, cioè va nella materia di fede e non di ricerca del pensiero umano. Non, l'uomo non ci deve entrare perché quella è anima, spirito, che viene dall'aldilà, cioè non nasce, invece ho pensato bene di affrontare una certa teoria rifiutando, studiando tutti quei nomi che hai citato, senz'altro molto, molto esatto, molto bene, c'è tutto un filone in particolare dopo che fa capo ad Heidegger, passando magari se vogliamo attraverso Nietzsche, è per cui questa realtà nuova è soltanto l'inconscio pazzo. È soltanto l'inconscio pazzo che può modificare una normalità basata sulla ragione. Cioè, come se, ecco, Heidegger avesse intuito che nell'inconscio c'è soltanto l'istinto di morte. No, invece nell'inconscio c'è la pulsione, ma c'è, siccome c'è la realtà biologica, quindi la vitalità, la pulsione diventa immagine, pensiero che inizia come immagine e non come parola. Mi scusi, allora una domanda un po' più politica. Perché oggi la sinistra beatifica ancora Basaglia? Questo è un discorso grosso. Un discorso troppo grosso, molto grosso, perché risale a... Bisogna toccare Marx, bisogna toccare i socialismi in cui erano libertari anche loro, da Fourier a Proudhon, Saint-Simon, erano... libertari fino a Bakunin, l'anarchismo, eccetera, dopo la rivoluzione francese, appunto, a seguito della filosofia dell'illuminismo, no? Dell'enciclopedia francese. E da lì c'è Marx che arriva, dopo aver tentato di studiare la realtà umana, come poteva essere anche già al di là della ragione e della cosa percepibile, se vogliamo anche, della veglia, ma non riesce e si dà allo studio del comportamento, dello sfruttamento, dell'economia politica, eccetera, che poi è stata la base di mezza umanità che si è dedicata al comunismo. Il comunismo è crollato ed è crollato perché non ci si è occupato dell'altra metà o tre quarti della realtà umana, che è la realtà inconscia, da quello che è veramente la natura umana. E per cui Marx considerava che l'essere umano è quello creato da Dio, pur essendo ateo, cioè è quello che non si modifica. Invece la trasformazione, l'evoluzione, la trasformazione va pensata nell'uomo che non ha sviluppato, certamente sì, ma non per questo è animale. Non ha sviluppato tutte le sue possibilità di pensiero, sì. Io vorrei chiedere una cosa al professore, perché mi ha colpito, parlando con il dottor Piazzi e con il professor Garattini, In pratica, il dottor Piazzi mi dice: ma anche se si guardano in Cagnesco la psichiatria organicista e gli eredi di Basaglia, in fondo in comune hanno un'idea dell'assistenza più che della cura del malato mentale. Ecco, un commento su questa cosa e poi una frase del professor Garattini che ammette, lui dice: la ricerca nel campo delle malattie mentali è tra quelle che hanno fatto meno progressi. Ovviamente lui da farmacologo si riferisce all'industria del farmaco e c'è una ammissione che mi ha particolarmente colpito, cioè che essendo troppo complessa questo campo, dice, le industrie investono sempre meno in farmaci. Cioè, vero, ecco. Sì, questi sono discorsi commerciali ben precisi. Per cui ci sono delle malattie rare che non trovano farmaci, perché le industrie non gli conviene, non c'è, se devono curare soltanto 1500 malati di malattie rare, e quelle non stanno a investire per fare una ricerca di qual è il farmaco che possa curare queste malattie rare. Questo è un fenomeno senz'altro, ma il fatto più grosso è che Basaglia è un organicista. È chiaro, nella misura in cui c'è la prassi, nella misura in cui c'è e il discorso appunto marxista che conta la prassi e non tanto le idee che muovono la prassi, non considera che dietro il comportamento, dietro il movimento del corpo c'è un'immagine, c'è un pensiero. La mano dell'uomo non si muove se non c'è un pensiero. Non è una anatomofisiologia soltanto, mentre loro appunto, perché nella storia la ricerca sull'inconscio è stata completamente stroncata da Lenin e da Stalin, che sono diventati totalmente organicisti, studiano soltanto, loro avevano come idea soltanto il riflesso di Pavlov, quindi cioè la fisiologia del corpo e basta, esiste soltanto il corpo. Nella storia di puntare sull'uguaglianza, il metodo era l'uguaglianza della soddisfazione dei bisogni. Giusta, sacrosanta, da perseguire. Ci deve essere una poltrona per tutti, ci devono essere 2000 calorie per tutti, ci vuole niente, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è nessuna differenza tra Berlusconi con i suoi miliardi e l'operaio. Siamo perfettamente d'accordo. Però poi bisogna pensare anche alle esigenze, allo sviluppo della mente, e questo il comunismo non l'ha fatto, perché quello che conta è soltanto la prassi, e nella misura in cui c'è la prassi, e mi pare ovvio che quello che conta è il movimento del corpo e non della mente, mentre quello che bisognerebbe fare è questa grande storia di dare il sapere proprio, che sarebbe soltanto cosa dell'autorità, del fascismo, del potere violento e prepotente a tutti, questo è importante, però per darlo a tutti bisogna ben conoscerlo, e quindi bisogna fare ricerca e conoscenza. La storia di Garattini è molto giusta: se Basaglia ha potuto in qualche modo liberare i malati, come ho fatto anch'io peraltro, è perché c'erano i farmaci. C'erano i farmaci che hanno sedato e quelli che a un certo momento davano in escandescenza, eccetera, e quindi per forza di cose bisognava fermarli. Se non si facevano del male, e si facevano del male. Con i farmaci c'era questa sedazione, e questo ha permesso appunto di buttare giù i muri, eccetera, giù le reti e così via dicendo. Dunque, buttati giù i muri, come si può fare oggi ad andare oltre, nel senso a far capire alle persone che il sapere non è potere, che il sapere è ricerca, che esiste un irrazionale sano, come lei teorizza da 50 anni, che la diagnosi non è una condanna a vita e che non siamo tutti matti, come ci ripetono ad ogni, talk show. Ecco, soprattutto lei ci può spiegare in conclusione, ma anche per i nostri ascoltatori, cos'è la salute mentale? Lei sa che è in corso un convegno mondiale a Trieste, il tema è proprio questo, no? Cos'è la salute mondiale? Ma diffondere il sapere, questo è tutto il discorso dei media. Nella misura in cui mi esaltano questa Basaglia e me lo trasformano, non da un eroe della prassi, che si potrebbe anche riconoscere, per carità, perché i lager erano lager e andavano, eccetera, ma come grande pensatore. Ho sentito il Radio Radicale che il conduttore a un certo momento ce l'ha con me a morte, perché io mi sono permesso di dire che Freud è un imbecille. Perché Freud è un gigante del pensiero. Non è vero per niente, no, è completamente falso, e io glielo posso dimostrare riga per riga, adesso senza offenderlo, per carità, ma suppongo che lui di Freud non abbia letto nemmeno una riga, ma è un'ipotesi così un po' cattiva, ma però c'è questa cosa che la stampa, i media hanno idealizzato. Delle immagini, delle figure per cui passano di cosa in cosa, per cui Basaglia è un grande pensatore. Basaglia non è un grande pensatore, pur volendo fare filosofia, perché ripete quello che ha detto Foucault, ripete quello che ha detto Bisvanger, in particolare è stato 20 anni a studiare la Dasein, Bisvanger, lui è un bisvangeriano che nega l'esistenza della malattia. Questo è il problema dei media, la salute mentale. E nella salute mentale cos'è? C'è il discorso questo proprio, che per salute mentale, anche questo è interessante, sarebbe studiare, perché mi si parla di salute e non mi si parla di sanità, come se non ci fosse il dilemma sanità-malattia. Certo. Si parla di salute come se fosse tutta fisioterapia, bagni turchi e saune per mettere in sesto un corpo fondamentalmente sano, ma in ogni modo la sanità mentale, diciamo, normalmente è stata presa in considerazione come coscienza e comportamento che deve essere razionale, deve essere questa cosa qui, non è stato mai pensato. A un certo momento sì, qualcuno, se quello taglia il collo al padre, eccetera, eccetera, butta dalla finestra il bambino, eccetera, lo ammazza la figlia, come succede tutti i sacrosanti giorni, però è malattia organica, è lesione del cervello. E invece qui, ho già detto, bisogna portare il discorso della salute mentale a tutto ciò che è inconscio. C'è la possibilità che tutto quello che noi, il pensiero che si muove silenziosamente durante i 33 o 35 anni di vita in cui si dorme, c'ha la dinamica malattia e sanità. Malattia appunto più o meno grave, malattia eccetera, che è l'anaffettività, che è la negazione, che è l'annullamento. Ma se consideriamo che queste parole non sono state mai prese in considerazione come malattia, cioè anaffettività, annullamento, pulsione d'annullamento, negazione, eccetera, continuate a stampare invece che 100 pagine di Left alla settimana, 1000 pagine di Left alla settimana per diffondere delle scoperte, eccetera, che pare che poi molte persone le conoscono, ma non ne vogliono sentir parlare. Bah. Grazie. Grazie per la generosità, per l'originalità ogni volta gli interventi del professor Fagioli. La battaglia, è vero, oggi è culturale. E ringrazio tantissimo Simona Maggiorelli, Federico Tulli. Un saluto da Ilaria Bonaccorsi. Vi do appuntamento a sabato prossimo con Radio Left e vi ringrazio per l'attento ascolto e arrivederci.